Questo è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni Fox 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. E anche lì il pronostico di la sensazione mia è che la Juventus non andrà in finale. Credo che non ce la faccia. Sai che purtroppo io non ce la farà. First time in my life, niente da replicare, sono d'accordo con lui, sottoscrivo tutto. È complicata, è molto complicata. Noi pronostici sbaglio tutti. Allora diciamo fai un che nome. Passa, che passa il Benfica, così passa la Juve, dai, visto che porto sfiga nel dare i pronostici, così abbiamo un italiano in finale. Io la vedo complicata, la vedo molto difficile. Oggi dispiace perché abbiamo giocato, mi dicono, solamente 49 minuti di gioco effettivo, quando la media di solito è 60, 62, 65. La dimostrazione che c'è stata una tattica molto ostruzionistica da parte del Benfica, che poi la posso anche capire, ma quello che mi dispiace è che tutto ciò l'ha permesso l'arbitro, perché l'arbitro ha permesso tutto quello che è successo oggi e in più, ribadisco, mi è sembrata anche una presa in giro questi minuti partendo dal 93esimo. Quindi forse la tattica della lamentela preventiva da parte del Benfica ha funzionato bene. Il Benfica è sesto nel ranking UEFA, ha sicuramente più esperienza internazionale e hanno più esperienza anche a lamentarsi, perché forse l'avremmo dovuto fare noi, iniziare a piangere come hanno fatto loro. Alla fine i pianti sono stati ascoltati, perché ripetisco, se vediamo l'arbitraggio dell'andata, l'arbitraggio del ritorno, c'è veramente da chiedersi come mai c'è stato questo tipo di situazione. Ma sì, ma ripeto, poi dispiace perché con due tiri in porta noi siamo usciti. Tra le due partite penso che la squadra meritasse molto molto di più, invece alla fine è stata premiata quella, secondo me meritava di meno, però questo è il calcio, l'ho detto ragazzi. Sembra Mazzarri e invece è Conte, cioè, io dico, ragazzi, mi viene da dire spudorato, non si può parlare così. Comunque oggi non parliamo di Juventus, non azzardatevi a farlo, 800 24 00 24. Franco Piantanini, autore di questo programma, c'è Claudio Schiattone in redazione, Fabio Cantadori in regia, il capitano. E soprattutto oggi voglio parlare solo di questo. Nicola Ferrero, nostro convocato per un giorno, che insomma porta a casa la maglietta, ma soprattutto oggi sarà nostro compagno di viaggio, che è qui con me e che saluto. Ciao Nicola, grazie. Ciao Carlo, grazie a voi. Vorrei che raccontassi a Pardo del vino che ci hai portato in omaggio. Voglio parlare di questo oggi. Subito per iniziare, tranquilli. Ho portato del Pellaverga di Verduno, perché è un vitigno piccolino, poco conosciuto delle mie parti. Io sono di Bra, in provincia di Cuneo, e a differenza dei rinomati Baroli, Barbareschi, Dolcetti e Nebbioli, lui è piccolino, e è un vigneto molto granata. Sì, perché Nicola Ferrero è granata. È venuto qui perché ha mandato un bellissimo commento che poi facciamo riascoltare sulla domanda cosa manca alla Juventus per vincere la Champions League. Adesso il tema si è spostato: cosa manca alla Juventus per vincere qualcosa in Europa. Ciao Pier, come va? Benissimo, e tu? Bene, bene, sono andato a Perugia, dove c'era anche quel Crociani lì, la Zanzara, sì. Mezza Radio 24. Incredibile, eh? Abbiamo, voglio rivendicarlo, abbiamo indovinato tutti e tre all'unisono il pronostico, cioè Benfica in finale di Europa League, non succede mai nella storia del mondo. Mai. Sì, però tu come al solito hai detto, bah, dico Benfica così meno sfiga ai portoghesi e vediamo, la Juve. Invece no, eh? Io avevo un motivo per augurarmi la Juve in finale, al di là, sì, del tifo in generale per il calcio italiano, secondo me è una cosa sana. Permesso che chi vuole gufare gufi, ci mancherebbe, sì, a favore del tifo contro tutta la vita, come ma quello ovvio, che scrive, ma e io godo, era meglio se andava in finale la Juventus, così perdeva lì, che scrive un ascoltatore. No, quello è il punto di vista del tifoso, il punto di vista invece di chi fa questo lavoro, secondo me anche per un discorso personale in certi casi, è augurarsi ogni anno possibilmente due derby italiani in finale delle due coppe. Sì, certo. Sembra che siamo un po' lontani. Poi c'è il signor ranking UEFA, ma chi se ne frega del signor ranking UEFA, diranno i tifosi. Figura, Nicola Ferrero ieri sera era lì abbracciato il signor ranking UEFA, vero? No, ero con due miei amici juventini che sostenevo, l'ho guardato con loro. Gli hai piaciuto per il culo fino a stamattina alle 7? No, mi sono annoiato mortalmente, una partita brutta. Volevi chiedere qualcosa a Pardo, tu? Sì, intanto è un'emozione sentirlo. Sì, anch'io mi emoziono tutti i giorni in maniera quasi alle lacrime. Sì, no, in questo ricollegandoci al Pelaverga, volevo ricordare con te quello splendido momento di grandissima televisione di te, David Luiz, in stato magnifico. Ma a quale ti riferisci? A questo? A Patigno. Patigno. Adesso poi lo mandiamo, Ce l'hai? No. Dopo, mi fanno volevo sapere dopo. Da Piero un commento, cioè cosa, in che stato era David Luiz in quel momento? Ma no, l'ho detto anche che era uno stato apparentemente abbastanza normale, però... abbastanza normale? Ma senti un po', aspetta, stai lì, fermo, senti, mondo abbastanza Brasile. Normale. Mondo Brasile, no, avete sentito, insomma, credere ai propri sogni, credere... Tutto bene, credere alle cose belle della vita, tutti, amare tutti. Bella vita. With Thiago Silva, great capo. Patinho play very well, play fantastic player. Come vedete c'è un certo entusiasmo. Sì, sempre. Ci siamo quasi fidanzati, ovviamente, in senso. The name. Arrigo Sacchi. Sacchi. The history of Italian football. I mean, he changed football in the world. Arrigo Sacchi, careca. Careca sì. Non è per pelo, no, ma il domandone è chi era messo peggio dei due, perché il domandone è questo. No, è perché ho fatto tutto il lavoro di ricucitura quando lui dice Arrigo Sacchi careca e poi spiega careca vuol dire che non ha pelo, cioè careca vuol dire pelato, perché appunto, non è che dice careca poi magari uno pensa al giocatore brasiliano careca poi se sto a dare del pelato e io ho fatto sì d'accordo, non ha capelli, però è stato un grande della storia del calcio mondiale, diciamo una delle interviste più complicate in carriera, ogni epoca. No, complicata proprio no, perché finché se complicato è quando c'è una provocazione, quando c'è una polemica. Questa è stata una delle interviste più divertenti in carriera, assolutamente. Sì. Poi lui l'ho rivisto anche l'altra sera, ovviamente in uno stato diverso, visto che Chelsea era stato eliminato. È fantastico, a parte che comunque è un giocatore molto disponibile in generale con i giornalisti, è uno che non si fa fregare, cioè ha un carattere allegro di suo, ma devo dire che dopo questa intervista qui, senza che io non lo conoscevo prima di questa intervista, tutte le volte che ci vediamo, ogni tanto ci mandiamo messaggi su Instagram, insomma è una... che ti posso dire, l'amicizia è una grossa e qui siamo lontani dall'amicizia, però è una simpatia, credo, spero a distanza, che mi fa molto piacere. Fosse anche un grande giocatore, tombola. Beh, è un buon giocatore. Non più di buon giocatore, molto di più che un buon giocatore, titolare della nazionale brasiliana, peraltro. Senti, fermi tutti, strade, traffico, poi torniamo. 800 24 0024, numero verde. Dalla passione legata all'ornitologia, quindi ai gufi vivi, quelli che vivono nei boschi, quindi anche nelle città, mi sono avvicinato, diciamo, anche alla passione del collezionismo, al punto tale che oggi, dopo 25 anni, sono riuscito addirittura a coronare un piccolo sogno e ho aperto addirittura l'unico negozio al mondo di gufi. Tutti convocati. Perché la Juventus stia facendo benissimo in Italia, stia stentando in Europa un paio di idee. Innanzitutto un dato di fatto, la Juve in Coppa non è stata particolarmente fortunata negli ultimi due anni. Fatta questa doverosa premessa, credo che il motivo per cui la Juve sia ancora indietro rispetto ad altri top team europei si possa scrivere a due macro motivi. Il primo riguarda la rosa, e non sto parlando degli 11 titolari ovviamente, sono convinto che in un match secco la Juve possa affrontare più o meno chiunque. Le due lentinotte arrivano dalla panchina e non credo di aver svelato una realtà oscura ai più. Padoin, Peluso, Caceres, la grande differenza sta proprio qui, in tutta la sua granitica semplicità. Il secondo punto risiede nel modulo che quest'anno Conte non ha mai cambiato, il 3-5-2. Nessun top team in Europa utilizza più questo sistema di gioco. Penso che questo modulo dia grandi frutti contro avversari mediocri, ma che sia poco efficace contro squadre che fanno della corsa e della proprietà tecnica la propria arma migliore. Credo che sia materia di discussione interessante questa. Perché solo da noi la squadra che vince il campionato gioca col 3-5-2? Stiamo perdendo terreno anche dal punto di vista tattico. La volontà di Conte di avere un giocatore alla Cercia, ad esempio, nasce dall'essersi accorto di questo doveroso cambio di rotta. Lo scopriremo il prossimo anno. Questa l'idea, il pensiero e il commento di Nicola Ferrero, nostro convocato per un giorno sulla Juventus. Cosa manca per vincere la Champions League? Beh, bisogna partire un po' più da lontano. Cosa manca per arrivare da qualche parte in Europa? Ho anche un sacco di ascoltatori come tale Gaetano Raffa. Parlate della vostra Juventus, tu e Pardo siete rubentini, quindi non avete il coraggio di dire che questo per la Juventus è un fallimento. È vero, io e Pardo siamo notoriamente rubentini, vero Pier? Sì, dichiaratamente. Sono rubentino. Adesso devo trovare gli insulti per tutte le squadre. Sono rubentino intertriste. No, Riom, poi c'è anche chi mi Riom scrive. Per, gira molto questa cosa dei romanisti, sono Riom, Ariom. Però uno su Milan, il Napoli e la Lazio per la par contro. Sì. No, io ho anche un messaggio, ma tanto la tua Inter, riferito a me, la tua Inter non vincerà più niente. Maurizio Crosetti, buongiorno. Eccoci, buongiorno. Allora, tanto sì, che io e Pardo lasciamo siamo... stare i messaggi che arrivano a me, perché vabbè. No, dato che io e Pardo siamo rubentini, quindi non possiamo dirlo. Nicola Ferrero è granata, quindi è di parte ed ha dichiarato, tocca a te dire che per la Juventus e per Conte questo è stato un grande fallimento, poi peraltro, secondo me, mediaticamente gestito nel modo peggiore possibile, perché cercare queste scuse qui è il cambio di Istanbul, è il recupero, e abbiamo meritato di più. E poi cos'è che ha detto anche, non lo so, era colpa del tempo, di Giove Pluvio, l'arbitro che ha pioggia, secondato le manfrine. E la luna. Luna, il cambio del clima, non ci sono più le stagioni di mezzo. No, vorrei capire una cosa, al netto della sfortuna certamente, del caso, della casualità, dell'avversario che comunque non è proprio una squadra di Pellegrini, no? Vorrei capire perché se Garcia o Totti parlano di aiutini o di arbitri sono provinciali e se lo fa Conte che dà dei provinciali agli altri invece ha ragione. Questo non lo so, vi lascio come tema di discussione. Poi certo io sono un solito bastardo nemico della Juve, no? Perché certo è così, però perché per certi tifosi se tu non dici che va sempre tutto bene sei un nemico. In realtà io non credo, per esempio, che sia giusto usare la parola fallimento, perché arrivare in semifinale di Europa League dopo aver sbagliato sicuramente il girone eliminatorio di Champions con una squadra che peraltro ha giocato anche bene, per esempio contro il Real Madrid, non si è fatto asfaltare come è successo per esempio al Bayern, anche se nel calcio non c'è la proprietà transitiva, però insomma il fallimento se arrivi quarto o se arrivi primo degli esclusi non è una parola giusta. È certo che la Juve dimostra, conferma di non avere grande spessore europeo, è espressione di un calcio sicuramente marginale ormai in Europa, con limiti e distanze notevolissime tra sé e gli altri. Benfica, finalista sconfitto l'anno scorso, sempre di Europa League, vincitore del campionato, vincitore della Coppa di Portogallo, superiore mediamente dal punto di vista tecnico alla Juventus, sono più bravi con la palla rispetto alla Juve e sono stati anche più, come dire, meno tracotanti, più umili all'andata, mettendo in campo la squadra migliore. Secondo me Conte ha sbagliato la formazione all'andata, ha sbagliato la partita dell'andata, ha sbagliato la partita, tutti. Ha sbagliato la formazione. Ha sbagliato spesso quest'anno dicendo che la casa della Juventus è la Champions, poi non riesce ad andare in finale d'Europa League a casa tua. Insomma, ci sarebbero molte cose da dire nell'atteggiamento, salvo una, che è quella che non ha detto Conte, cioè che il Benfica è un'ottima squadra, più esperta della Juve e che non ha rubato niente, però, in finale per merito dell'arbitro. Però posso dirti, io mi dovessero far scegliere tra il Benfica e la Juventus, prendo la Juventus tutta la vita, ma anche tra la Juventus e il Chelsea prendo la Juventus tutta la vita. Ma certo, e questo però è un aggravante, non è un attenuante. No, ma chi sta cercando attenuanti? Perché vuol dire che con una squadra buona... Sento Pardo che sta provando a dire qualcosa, sentiamo che cosa. Allora, la prima in Italia, cioè la Juve, è stata eliminata dalla prima in Portogallo, che è il Benfica. La terza in Italia, che è il Napoli, è stata eliminata dalla terza in Portogallo, che è il Porto. Ora manca Roma Sporting Lisbona, ma in ogni caso anche se la Roma battesse ipoteticamente lo Sporting Lisbona saremmo sempre 2-1. Secondo me noi dobbiamo far pace col padre, Pier, facciamo una fatica pazzesca a sentirti, sei in viaggio verso Perugia, adesso ripristiniamo il collegamento. Però una cosa che voglio dire, secondo me, per chiarezza, allora, questo non è una, perché sennò generalizziamo, non è una sconfitta del calcio italiano, Maurizio, è una sconfitta della Juventus. Quindi non possiamo dire ok, siamo inferiori al Portogallo perché usciamo con il Napoli, esce con il Porto, la Juventus esce con Sport di Lisbona. Sono delle sconfitte individuali, secondo me a questo livello sì, la Juventus, certo, rappresenta se stessa. Sono le sconfitte sono sempre individuali, ma ogni squadra comunque è anche l'espressione del movimento calcistico che la sorregge, che, sì, che per l'appunto la produce, no? Quindi indubbiamente non, il nostro calcio non vive il suo momento migliore degli ultimi 10-15 anni per una serie di ragioni che qui non avremo tempo di analizzare, e il peso specifico del nostro calcio è inferiore a quello di molte altre nazioni, credo anche al Portogallo oggi, non lo dicono solo i confronti diretti. Lo dice il signor ranking UEFA. Perché sì, perché è andata così, perché si può sempre risalire, il nostro calcio devastato spesso poi nei momenti più critici trova il guizzo, pensate ai mondiali del 2006, però certo che a 40 giorni dal mondiale brasiliano, essendo usciti contro ogni tipo di avversario in Europa, è chiaro che non possiamo essere follemente ottimisti, anche i risultati della nazionale nel cammino, qualificata con ampio anticipo certo, però nell'ultimo anno la nazionale non ha vinto quasi una partita, insomma, quindi siamo questi oggi. Sì, siamo questi, ma siamo questi, però io rimarrei concentrato sulla Juventus, e la Juventus secondo me è questa, Conte è questo, ed entrambi escono ridimensionati. Nicola Ferrero, cosa vuoi dire? Cosa vuoi chiedere a Crosetti? Volevo dire che ieri parlavo con John Irving, che Maurizio conosce anche bene, il grande juventino, un inglese, come ti raccontavo prima, venuto in Italia 30 anni fa per il suo amore per la Juve, e lui mi faceva notare una cosa secondo me molto giusta, cioè che da un mese e mezzo manca anche, oltre a tutti gli altri problemi, quell'ardore agonistico, quella voglia di mordere la partita, di mordere l'avversario, che a me ha fatto mi ha fatto molto amare, tra virgolette, la Juve degli anni scorsi. Cioè a me è piaciuto molto come la Juve affrontava da un punto di vista caratteriale, oltre che tecnico-tattico, le partite. Non vorrei che tutte le cose che diceva Conte all'inizio dell'anno, cioè ho a che fare con un gruppo appagato, siamo molli, la Roma sta andando forte, eccetera, che sicuramente sono funzionate nella prima parte di stagione, perché dopo un inizio più o meno claudicante si sono ripresi alla grande. Stai dicendo ieri la Juve non ha morso per nulla, fine da un ciclo. Mese no, fine ciclo non lo so, ma magari sì, magari può anche sì. Darsi. Sentiamo, però non ha più quell'ardore. Sentiamo Crosetti, poi ci vediamo per la borsa. Maurizio, fine ciclo non so, stanchi se non addirittura stremati, certamente sì, non tutti adeguati a partite di valore europeo anche. Quindi in Europa, Carlo, questa cosa si è vista poco. Cioè? La cosa più sorprendente della Juve è stata proprio il modo nel quale ha affrontato alcune partite europee, anche quella col Galatasaray. Io rimango convinto che la Juve sia stata danneggiata da quel campo e sfortunata, però comunque anche nella mezz'ora di partita che c'era stata ancora col campo decente la sera, prima della sospensione per la nevicata, era una Juve timida, era una Juve in espressa, quindi questo è un problema che in Europa ci siamo portati dietro. Sul discorso di prima, la differenza tra il Portogallo e noi la fa giustamente anche il fatto che loro hanno il coltello fra i denti sempre, cioè Benitez col Porto ha fatto turnover, la Juve all'andata ha fatto turnover, noi oggi non siamo più nelle condizioni di poter far turnover con nessuno, certo. Forse con la Cavalcagoschi, ammesso che esista. Ma certo, ma certamente, dobbiamo, ma soprattutto secondo me abbiamo, questo qui è un circolo vizioso dal quale non usciamo più vivi, perché continuiamo a uscire, continuiamo a dire che vabbè siamo stati sfortunati nell'uscire, continuiamo a affrontare l'Europa League come se fosse un fastidio, molto spesso fai in semifinale, cerchi di fare la partita della vita. Ma la realtà è che ormai sei sotto. Ma certo, sotto. Ma poi diamo del Pirla a Mourinho, perché fa turnover nella partita dell'anno contro il Liverpool, per poi andare fuori con Atletico Madrid. Però secondo me la mentalità corretta quando affronti le coppe europee è questa. Io ringrazio Maurizio Crosetti, che devo lasciare andare. Ciao Maurizio, grazie. Ciao, un abbraccio a tutti. Ciao, mi tengo Nicola Ferrero qui con me. abbiamo la borsa, poi di nuovo Pardo, poi gli ascoltatori, sono curioso di sentire cosa hanno da dire. 800240024, numero verde. Perché a differenza di molti altri tipi di animali, devi pensare che i gufi, ad esempio, rispetto al merlo, al falco, alla poiana o l'aquila, hanno gli occhi frontali, per cui ricordano molto anche la nostra, la forma, diciamo, dell'uomo, quindi sono degli animali che evocano delle sensazioni spesso positive. Magari il Benfica ha avuto più esperienza da parte nostra anche nella lamentela nei confronti dell'UEFA, nel mettere le mani avanti. Avremmo dovuto farlo anche noi, piangere un po' con l'UEFA, perché, ripeto, oggi sono affrontate due squadre sicuramente forti, ma un arbitro non all'altezza della situazione. Tutti convocati. È venuto il momento che Antonio Conte dica la mia di questa cosa assurda che mi è capitata. Paolo da Pescara, buongiorno. Buongiorno. So che ha premura, quindi faccio parlare immediatamente. Sì, dica. Grazie. Posso già? Sì, certo, siamo in onda. Sì, certo. Allora, io ho tremato perché avete visto che il centro era meglio parlare di Juventus, forse una cosa era lecita. Però poi avete parlato di Juventus, peraltro avete anche rimproverato Conte di aver detto quello che avete. In realtà io volevo aspettare la lancia fuori di Conte, che resta sempre comunque un grandissimo allenatore, una persona serissima. Peraltro anche perché ha ricostruito una Juventus che era stata distrutta dai fatti. E poi perché c'è un altro motivo: in Europa non vincerà mai più nessuno delle squadre italiane. Perché? Perché le squadre italiane purtroppo hanno un problema. Qualunque giocatore si voglia comprare, e i soldi oggi sapete benissimo che non ci sono, costa il doppio per regimi fiscali ed altro connesso a questo meccanismo, per cui qualunque giocatore in Europa costa la metà di quello che costa in Italia. Va bene, però quindi questa è la realtà per la quale, con la quale bisogna confrontarsi. Benissimo. Questo è il problema, non vince più nessuno. Benissimo, però quando la finiamo di cercare delle scuse? Paolo, abbia pazienza. Allora, la Juventus ha Vidal, che è un giocatore che vuole tutto il mondo, Pogba, che è un giocatore che vuole tutto il mondo, Pirlo. Bravo Pier. Buffon? Sì, ma non sono top player. Lei dice che Pogba, valutazione una sessantina. Non è un top player, va bene. Vidal lo vendo l'anno prossimo. Adesso gioca nella Juventus e Vidal gioca nella Juventus, non gioca da un'altra parte. Il top player è un'altra cosa, è quello di che costa Bale 130 milioni. Va bene, che Bale. Se venisse in Italia le costerebbe 250. Teniamo conto anche di questo e poi facciamo. Va bene, teniamone conto e poi teniamo conto anche delle congiunzioni astrali, dell'allineamento delle stelle dei pianeti e di tutte queste cose, così almeno cerchiamo alibi da tutte le parti. Tra l'altro, io volevo. Prima di Pardo, sentiamo cosa dice Nicola Ferrero. Va. Posso averne uno di quelli lì nel Toro? Basta anche Tevez, tipo. Cioè, nel senso che se i Juventini si lamentano di Vidal, Llorente, Buffon, sì. Pirlo, Chiellini. Ma magari ti piglieresti volentieri anche Quagliarella, che peraltro da quelle parti è già passato. Volentieri. Cioè, uno che è messo proprio ai margini di ogni rotazione. Non lo so, mi sembra sì. Io credo che la Juve abbia sbagliato una serie di cose, abbia giocato una brutta partita ieri, a prescindere dal terreno, dall'arbitro. Due brutte partite. Ha giocato un brutto doppio confronto. Pierluigi, sì. Dimmi. Ma sì, io ripeto quello che penso, noi non siamo più top in Europa, per cui o ce lo mettiamo in testa, affrontiamo quello che possiamo vincere, per esempio l'Europa League. L'Europa League è una competizione che oggi le italiane possono vincere, sì, ma poi, Juve poteva Piera, vincere, scusami, anche il Napoli, ma il Benfica quali top player ha? Il Benfica ha una serie di buoni giocatori. A me piace molto come squadra, a me impressionò l'anno scorso tantissimo in finale, perde contro il Chelsea al 94esimo. Io quando l'ho anche detto, quando ci fu il sorteggio Benfica Juve, disse attenzione perché questa è la squadra più forte che c'è tra le tre avversarie rimaste. Secondo me è la favorita della finale, anche per la maledizione di Bera Gutman, che ieri negli ultimi 5 minuti, fra l'assurda ammonizione a Salvio, viene ammonito non si sa come, cioè prende il pallone col braccio, ma braccio lungo il corpo e la rissa Markovic, Vucinic, il Benfica ha perso due giocatori importanti per la finale. La verità per me è quella lì, cioè noi, la Juve questa coppa la poteva vincere, il Napoli la poteva vincere, hanno fatto tutto quello che potevano fare per vincerla? Secondo me no. No, ma in maniera diversa, la Juve andava molto più avanti, va detto, il Napoli è uscito molto prima, però tutte sono uscite con delle avversarie che potevano superare. Pier, ma è una considerazione profonda. Bisognava giocare col coltello in bocca. Bravo, ma è una considerazione profonda che va che arriva fino all'approccio che comunque è stata data a questa competizione. Non è solo una questione di singola partita, di singole scelte o di turnover, è una questione di approccio to court che è stato dato a questa competizione da parte di anche di chi guida queste squadre, perché torno a ripetere, secondo me questa eliminazione ridimensiona anche il ruolo europeo di Antonio Conte. Sì, sono d'accordo, io questa cosa l'ho detta, la dico da 3 mesi, quindi se oggi dicessi il contrario sarei ipocrita. Io dico da mesi che l'Europa League serviva soprattutto a Conte, esatto, la Juve, perché Conte, che è un allenatore per me eccezionale e che in Italia ha fatto una cosa incredibile, cioè ha risvegliato la Juve e si avvia a vincere il terzo scudetto consecutivo, per cui secondo me è un grande allenatore, però aveva maledettamente bisogno per la sua carriera personale, certo, di una legittimazione internazionale di un certo tipo, e l'Europa League poteva rappresentare una bella soluzione, come lo è stata l'anno scorso per Benitez. Ma chiaro, ci dimentichiamo che il Napoli prende Benitez alla fine dell'anno, dopo aver vinto l'Europa League con Chelsea e dopo una stagione discreta recuperando la squadra che era in difficoltà di Di Matteo, ma una stagione discreta in campionato. Benitez può scegliere, l'anno scorso aveva 5-6 squadre importanti e alla fine ha scelto il Napoli. Questa è la verità. Oggi, quindi l'Europa League serve a tutti, gli unici a non averlo capito siamo noi. E siccome oggi purtroppo non siamo nella condizione di poter vincere col piede sinistro contro nessuno, se contro il Benfica, che è una buona squadra, una partita equilibrata la perdi, e non la perdi. A me dispiace questo ragionamento, cioè Conte può aver ragione su alcuni episodi specifici, ma uno non può fare fino al giorno prima in Italia dice sono provinciali il Napoli, esatto, protestano contro gli arbitri e poi tu esci all'Europa League e protesti contro gli arbitri. Allora, a me piace molto il messaggio filosofico che la Juve lancia in Italia, perché credo che sia utile pensare e concentrarsi sul campo, su quello che puoi fare e dire che conta solo il campo. Quindi io questo messaggio lo recepisco, ma grande Pardo. Raramente sono stato così d'accordo con te. No, ma se la Juve dice questa cosa, e io ripeto, è un messaggio che accetto, perché è vero, perché bisogna viverla così il calcio, ragionare su quello che tu puoi migliorare te stesso, non sui fantasmi che ci possono essere fuori, perché sennò finisci sempre per nasconderti dietro a un miliardo di alibi, e questi non fanno bene a nessuno, né a Conte, né alla Juventus, né al calcio italiano. Quindi la verità è questa, basta con gli alibi. Anche dire una cosa, sono stati dati 6 minuti di recupero al 92. Ha giocato fino al 98. Ma lasciamo perdere queste cose qui, dai. È uscito in un contrasto, sì, che ha giocato 9 contro 11 perché ha finito di campo. Insomma, a me non sembra. Sì, ma io queste sono semplicemente delle scuse. Come secondo me alla fine è un grande alibi quello del campo di Istanbul, perché quando perdi, quando fallisci, allora devi ammetterlo, e allora bisogna cercare delle ragioni. Nicola Ferrero, cosa vuoi dire? Aiutami. Sono d'accordo assolutamente su Istanbul. Addirittura credo che la grande pecca sia stata l'andata. Cioè all'andata la Juve l'ha regalata. L'andata quale? Questo l'andata di Istanbul? Benfica. No, l'andata col Galatasaray. Quindi la partita del girone d'andata. Quando fu regalata bellamente con il retropassaggio. Assolutamente. Secondo me, di nuovo, sintomo di poca concentrazione, poco focus su... Io credo che ieri Conte abbia sbagliato un'altra cosa. Sempre, siamo tutti tecnici in Italia, ho il privilegio di essere qua davanti al microfono. Io non avrei levato Marchisio. Il Marchisio delle ultime 3 settimane l'ho visto benissimo, come non lo vedevo da quasi un anno, né in nazionale né in Poi segna il gol che ho detto 3 giorni prima. Una partita magnifica, perché l'ho vista. Vidal l'ho visto molto giù fisicamente, di testa, nervoso. Pogba invece, che tutti i miei amici juventini dicevano non è in forma, ha fatto una bella partita ieri. Llorente indifendibile ieri, a me piace moltissimo, però ieri Llorente non ne ha più già da un po'. Sì, è bollito. Non ne ha più però, già da un però po'. Però Llorente in una partita. Però non lo levo. Questa. No, non lo levo assolutamente, manco io. Perché in mente Copenaghen, che pure esordio in Champions League, una partita va detto strafigata. Tira a vista, chi se lo ricorda, sì, ed è in buona fede, riconosce questa cosa. La Juve 27 palle gol. Sì, ha fatto la partita della vita al portiere. ecco, faceva partire la vita. Llorente scaldò per tutto il secondo tempo e non entrò. È vero che ancora non era diventato Llorente, perché forse non aveva neanche addirittura esordito. Lui fece il primo gol contro il Verona, quindi era ancora proprio il primissimo Llorente, quello che a qualcuno sembrava un brocco. Però sai, in quelle partite lì, che sono partite, dovevi trovare l'episodio, dovevi trovare anche nello sporco della partita una situazione di un certo tipo, una carambola, una schizzata, una botta anche di culo, il culo dell'attaccante, no? Cioè, certo. Che arriva con una frazione di secondo, che devia un pallone, insomma, uno come Llorente è una grande situazione. Quindi io questo, per me Llorente ieri, insomma, ogni minuto deve giocare. No, ma chiaramente deve giocare ogni minuto, perché se è arrivato lì con questi uomini, giusto andare fino in fondo con questi uomini. Paradossalmente anche Vidal, tu hai ragione, Nicola, quando dici appena recuperato togli Marchisio, che era un fire per varie ragioni, però è giusto che certe partite le giochino questi giocatori, probabilmente. Poi è chiaro che devi portare questi giocatori in condizione, magari facendo riposare al giro precedente. Ci fermiamo per il traffico, fermi tutti, 800 24 00 24, torniamo subito. Tra l'altro, Diego Costa sei andato al Chelsea, cioè un giorno dopo averlo eliminato va al Chelsea, 40 milioni di euro. Diego Costa beccherà 4 milioni l'anno. Il Niño torna all'Atletico. Il Niño va all'Inter. Perfetto, all'Inter. Perfetto per l'Inter. No? Mi sbaglio? 800 24 00 24, numero verde. Strade. Gufi, state a casa. Tutti convocati. Allora, prima di Gennaro, provincia di Salerno, c'è Nicola Ferrero qui con noi che vuole fare una domanda a Pardo, prego. Chiedeva a Pierluigi se secondo lui questo finale di stagione europeo può cambiare qualcosa nel futuro di Juventino di Conte. Penso di sì. Penso di sì, perché pensate solo come è cambiata la percezione della stagione della Juve fra ieri pomeriggio e oggi. Poi siamo anche sicuramente adesso sotto schiaffo, no? Perché la cosa è successa ieri sera. Però lo cambia un po', secondo me. Premesso che vincere il campionato per il terzo anno consecutivo è qualcosa di straordinario, proprio lo dico con chiarezza, perché altrimenti si rischia di, no, di, così come, guarda, faccio un esempio diverso, in qualche modo simile. Il Bayern, che vince il campionato tedesco il 25 marzo con 7 giornate d'anticipo, è un grande risultato, nessuno lo discute. Però avete sentito in queste ore, giustamente, dopo quello che è successo con Real Madrid, Guardiola è sotto accusa da parte di alcuni. Comunque la sua immagine in Germania è questa, è il calcio, voglio dire. Certo. Non vuol dire essere sotto campana, significa semplicemente che il calcio è, come dico spesso, materialista, che cambia di settimana in settimana, di partita in partita, dove soprattutto poi se parli di grandi squadre. La piramide si stringe alla fine, e ne vince solo una, vince il campionato, solo una vince le coppe, sì, e quello fa la differenza. Quindi secondo me un po' l'effetto lo fa, insomma. No, ma chiaro, sarebbe inutile negarlo, no? Se stiamo discutendo della dimensione in valore assoluto di Antonio Conte, se vogliamo paragonare Conte, che si offre comunque al Manchester United, che ambisce, che aspetta a prolungare con la Juventus perché vuole vedere cosa succede all'estero, che ambisce a grandi panchine, allora è chiaro che il parametro di Antonio Conte devono essere Ancelotti, Mourinho, Guardiola, Klopp, devono essere allenatori di questo livello, no? E allora questa Coppa UEFA te la dovevi alzare a tutti, a costo, guarda, esagero, di perdere lo scudetto, a costo di perdere lo scudetto, doveva essere il primo. Ma non lo perdi, ma ha maggior ragione. Due settimane dopo. Ha maggior ragione, lo sai già che non lo perdi, quindi ti togli il provincialismo di dosso, ragioni in prospettiva Europa League, che è quello che conta, e poi il resto lo vediamo. Gennaro, buongiorno. Buongiorno a tutti e grazie di essere stato convocato. Dica. Volevo premettere che sono un gran tifoso del Napoli e volevo fare una dichiarazione. Ieri sera al fischio finale della Juve ho provato lo stesso godimento che provò il cronista sardo quando Sau fece il 3-1 a Milano con l'Inter. Una cosa magnifica. Voi ricordate tranquillamente di quale tipo di godimento si parlava? No, io, chi è il cronista sardo? Chi è? Il cronista sardo, il telecronista o radiocronista, che dir si voglio, che fece la cronaca del terzo gol di Sau a Milano con l'Inter. Ma chi è questo qua? Sanna. Non lo so chi è, ma va cercato su YouTube. Pardo, te lo faccio sentire tra un attimo. Vedo Piantarita già al lavoro, tra un attimo ce l'abbiamo. Poi volevo soltanto dire che i giuventini avevano preparato il pranzo per casa loro, ma adesso sono costretti a servire due ospiti sulla loro tavola. Siviglia-Benfica, signore e signori, Siviglia-Benfica a Torino, casa della Juventus, questa è la finale di Europa League. Aspetta un attimo, senti qua. Un gol del grandissimo campione, ha praticamente messo a sedere l'intera difesa, ha saputo aspettare la libidine del gol, una samsara per la gioia del gol del 2-1, è rimasto lì a godere fino a quando non ha ficcato il pallone nella porta sguardita, quasi una cosa sessualmente vietata ai minori, quella di Marco Sau, che è riuscito veramente. Hai capito a cosa si riferiva Gennaro? Ho capito. Immaginavo che ci fossero delle facili dietrologie. Sì. Allora, io voglio parlare al volo con Carmine Fottia, direttore del Romanista. Ciao Carmine, ciao direttore. Ciao, buonasera a voi. Allora, Conte che dice a Roma è provinciale, si lamenta con gli arbitri, adesso attizziamo pure il fuoco, vabbè, tanto ormai, si lamenta con gli arbitri, poi va fuori in Europa League e dice, ah no, aspetta, gli arbitri qui non ci hanno aiutato, allora la Roma provinciali, la Juventus invece non è provinciale perché può lamentarsi, com'è la storia? Vabbè, hai detto tutto te, che devo dire? Aggiungi qualcosa? Devo dire che è agghiacciante, un gomblotto. È un gomblotto. Non lo so, che devo dire? La verità è che quando uno è abituato a contare e si trova poi sempre nella parte di, a un certo punto, di quello che sta sotto, non ci sta, questa è la verità. Quanto rosica la Roma? Perché il campionato ancora dura ancora tre partite, no, non sei? Guarda, noi non rosichiamo per niente, perché la Roma quest'anno ci ha dato la gioia di una squadra fantastica. E poi insomma arriverà il momento in cui vinceremo quello che dobbiamo vincere, ma quest'anno noi non abbiamo bisogno di recriminare nulla, abbiamo fatto vedere un calcio fantastico che non ha avuto mai bisogno di nessun aiuto e poi speriamo l'anno prossimo di arrivare ancora più avanti di quest'anno. Direttore, mi sembra un po' troppo buonista, anche se tra le righe posso leggere molte cose. Pierluigi. No, io volevo capire però allora delle due scuole di pensiero. L'ho detto io 5 minuti fa, lo ripeto, è chiaro che c'è una contraddizione, no? Nel momento nel quale Conte dice che la Roma e il Napoli sono provinciali e poi però recrimina sugli arbitri. Allora, qual è il direttore romanista? Siccome però questo è un vizio, che la Juve è una squadra provinciale, questa è la mia opinione, la Juve è una squadra molto provinciale, che infatti a Torino non è che tutti dicono, anzi, il tifo per la Juve è minoritario, cioè la Juventus è a Torino, dico, poi verso l'Italia, chi vince ovviamente c'è tanta gente che gli ha preso. Non possiamo dire che è provinciale la Juventus, direttore. Beh, lo diciamo sulla base di questo, di uno che dice agghiacciante complotto, è più provinciale della Roma, che c'è un allenatore che parla francese, cioè che ti devo dire, non è che chi vince ha sempre ragione, perché no, se no Pilato fa ragione nei confronti di Gesù Cristo, cioè questo discorso che chi vince la storia si chiude, ho vinto, no, bisogna vedere come hai vinto, bisogna vedere che cosa hai fatto per vincere e poi bisogna vedere che succede quando ti confronti in un terreno come quello internazionale, dove non ci sono tutte le sudditanze che ci sono in Italia. Io questo vorrei capire, che cosa ha fatto la Juve per vincere in Italia? Io vorrei che ci fosse non mi tirerete in una polemica sciocca, non... La Juve quest'anno ha vinto perché quest'anno è stata più forte della Roma, ma ha avuto anche degli aiuti inutili, persino inutili. Cioè tu dici la Juve è più forte della Roma, però avrebbe vinto comunque. No, io ho detto che quest'anno, io ho detto che io Io ho detto che quest'anno è stata più forte della Roma, ma dico che ha avuto degli aiuti. Poi cosa succederebbe, cosa sarebbe successo se non avesse avuto questi aiuti, non l'ho detto io, l'ha detto Panorama, che non è, diciamo, un giornale tifoso della Roma, mi pare, no? E ha fatto una classifica senza errori arbitrali, mi pare che la Roma sarebbe stata ampiamente prima, però questo fa parte del giorno del poi. Noi quest'anno ci vogliamo godere una grande stagione, che è il preludio di un grande ciclo, secondo me. Sì, preludio di un grande ciclo, questo lo andremo a verificare. Sulla storia degli aiuti io non enfatizzerei, perché secondo me il campo in Italia in questa stagione ha ragione, cioè la Juventus è in questo momento la squadra più forte, anche se squadra che onestamente a me piace più vedere giocare è la Roma, e questo l'ho detto un sacco di volte. Grazie Carmine Fotia, ringrazio Pier, grazie, ci sentiamo lunedì. Ma io se vuoi sto, stai? Vuoi. Ma grande, ma sì, allora resta con noi, no, sì, ma sì, in viaggio verso Perugia, stasera sei con il signor Cruciani alla Zanzara. Faccio un passaggio alla Zanzara. Mamma mia. Mamma mia, mi tengo allora Pierluigi Pardo, Nicola Ferrero ovviamente, sta qui con me per due ore, abbiamo ancora una, ciao. Agghiacciante quello che dicono, agghiacciante quello che dicono. Magari il Benfica ha avuto più esperienza da parte nostra, anche nella lamentela nei confronti dell'UEFA, nel mettere le mani avanti, avremmo dovuto farlo anche noi, piangere un po' con l'UEFA. C'è solamente una cosa, quería no dejar una situación que quiero decirla. Agradecerle a la mamá de estos jugadores que tenemos en el Atlético de Madrid, porque lo hicieron hacer con unos huevos así grandes. Ma sai, si scappa è una squadra che ormai è diventata come l'arredamento, no? Cioè, alla Final Four ci sono i canestri, i tabelloni, e grazie al cielo c'è anche il Zesca, però poi alla fine ci si ricorda solo di chi vince. Finisce qui il primo tempo. Convocati. Due ore di rabbia, due ore maledette, due ore impietose, oscure e barbare, due ore per tenere il dolore alla catena e non sentire più niente che valga la pena. Due ore per guardarsi allo specchio che in fondo le tue ferite assomigliano alle ferite del mondo. Ed in fondo a questa piccola catena un'antichissima usanza, quella misura del tempo. Nicola Ferrero, convocato per un giorno, che ti convocherei tutti i giorni. La sai questa canzone? Là? Non la conoscevo, ammetto la mia ignoranza. Devi imparare a memoria a cantarla. No, ma tra l'altro devo rivelare una cosa. Lui bravissimo, scioltissimo, sembra nato qui, no? Però è figlio d'arte. Salutiamo la mamma Gabriella Giordano, che negli anni 70 era notissima speaker di Radio Monte Carlo. Concorrenza. Mamma mia. Contenta la mamma di questo. Sì, sarà lì che gongola. Perché non ci chiama? La convochiamo? Gabriella! Chiamaci 800240024. Mi ha raggiunto anche Pier Augusto Staggi, direttore di Tutto Bici, nostra voce del ciclismo e juventino marcio. È abbastanza. Pazienza. Che, mentre stava arrivando, ha subito detto una sciocchezza. No, sciocchezza, ognuno ha le sue opinioni. Perché devi essere così tranchant? Perché tu parli da tifoso. No, io parlo da tifosi. Io sono... l'ho sempre sostenuto, molti juventini sostengono che questa Juventus sia la più forte di tutti i tempi. Secondo me no, Conte è riuscito a ottenere il massimo da una squadra molto modesta, cioè più modesta del Benfica, più modesta del come organizzazione. Sì, l'abbiamo visto ieri come giocavano come il pallone, come organizzazione, no. E allora a chi compete l'organizzazione? No, soprattutto come trattavano la palla, ragazzi. Noi Lichtsteiner che sbaglia l'aggancio davanti al portiere non è colpa di Conte. Vidal che non azzecca un passaggio, Bonucci che non azzecca un rinvio. Cioè, ma ci mettiamo a discutere Vidal, no? Ma Vidal rientrava dopo un mese, anzi nel primo tempo qualcosina anche fatto vedere. Vogliamo discutere anche ma ieri Tevez e l'Oriente, che sono stati tra l'altro il plus della Juventus di quest'anno, non hanno reso come ci saremmo aspettati, ma non è forse un colpa loro. No, il problema è che il Benfica si muoveva con grande personalità, il possesso palla era sicuramente più buono. Allora, io ti faccio sentire una cosa, mentre ti do questa notizia che è di ora, Pirlo ha rinnovato con la Juventus fino al 2016, quindi rinnovo biennale per Andrea Pirlo, l'annuncio tra poco ufficiale, però si sa già, quindi questa è cronaca. Ti faccio sentire, e lo faccio sentire anche a Paolo. Pier, ci sei? Sei tornato? Sì, lì? Perfetto. 80024 0024, stiamo facendo impazzire la ragazza del centralino, ma va bene così. Vi faccio sentire Ettore Messina, allenatore del CSKA Mosca, okay, che giocherà le Final Four a Milano. Allora, secondo me questa è la mentalità quando ti approcci all'Europa. Messina. Ma sai, CSKA è una squadra che ormai è diventata come l'arredamento, no? Cioè, alla Final Four ci sono i canestri, i tabelloni, e grazie al cielo c'è anche il CSKA, però poi alla fine ci si ricorda solo di chi vince. Allora, chiaro, no? Il messaggio mi sembra chiaro, cioè Final Four di Eurolega, le migliori quattro squadre, ok, noi siamo l'arredamento, noi siamo di casa, noi lì arriviamo, ok? Secondo me questa è la mentalità che deve avere un grande allenatore di una grande squadra. Pierluigi. Sì, ma insomma io ti dico, sicuramente rigiocando questa partita la Juve poteva passare, però quello che secondo me rimane è la considerazione che ripeto ormai come un disco rotto, che comunque devi fare il 110% in Europa e non sempre si riesce a farlo. Poi la Juve, secondo me, io sono abbastanza convinto che nella storia della Juve, e non sto parlando di arbitri, tanto per essere chiari, ci sia un destino di imponderabile a favore in campionato e di un po' di sfiga europea. Cioè io questo lo penso per una serie di circostanze e di casualità, secondo me, non per un disegno massonico. No, per una questione di DNA. Sì. Ai, Pardo in galleria, signore. Adesso aspettiamo che esca dalla galleria. Ma no, ma giustamente mi diceva in cuffia Franco Bertanita. Allora, Conte deve dire la stessa cosa di Messina. D'accordo, okay, con te. Coppa in casa, d'accordo con finale te. Di Europa League, noi dobbiamo essere l'arredamento. Però possiamo dirla tutta, non è che lo dicono gli juventini, quelli che si piangono dopo, perché ci sono due tipi di juventini, no? Quelli che vinciamo perché siamo i più forti. Io faccio parte di un'altra categoria, che mi piace il bel calcio, mi piace vedere giocare bene. Ecco, possiamo dire che la Juventus sta facendo fatica da due mesi in campionato e non può giocare diversamente contro il Benfica? Non aveva velocità, non ha forza, ma questo non ce l'aveva ieri sera, e due mesi che fa fatica in campionato, la medichi e porti a casa l'1-0, sì, sparagnino, magari con il colpo di fortuna, come ha detto Pardo. Allora pensa alla Coppa, cioè pensa ad arrivare al top di quello che hai ieri sera nelle due sfide di Coppa. Nicola. A me è venuto in mente un confronto un po' impietoso, cioè io ho visto tutte e due le partite martedì e mercoledì, il confronto delle altre due semifinali di Champions con quella di ieri sera è veramente impietoso, cioè secondo me è la fotografia del nostro calcio vera. L'Atletico, prima dicevamo dei top player, che top player ha l'Atletico? Cioè ha gente con un paio di attributi di cojones, come dice ha un allenatore che io avrei paura di incontrare negli spogliatoi, perché sì, nel senso che io ho un rispetto innato per i mediani e per Simeone ho nutrito una venerazione giovanile tendente a infinito, non saprei come dirvelo diversamente. È proprio il mio numero, io impazzisco per i numeri 4, per quelli che legnano e c'hanno un po' di piedi e son fatto Patrizio così. Sala? Sì, ma che sei granata. Almeida, la Musci, quella gente lì, okay, gente che non lo sai, ma senza di loro. Luca Fusi è il mio idolo. Luca Fusi? Sì, della storia del Toro. Idolo ogni epoca. A parte Junior. Però con queste caratteristiche la Juventus ha dei giocatori che sono fondamentali e estremamente veramente strategici nell'economia del gioco di Conte, come Asamoah o Lichtsteiner, che però a loro volta nell'ultimo mese e mezzo, due, e anche ieri sera non hanno reso. Cioè, se avessero giocato ai loro livelli, ma non è una questione psicologica, è che hanno fatto fatica a giocare ai loro livelli anche già prima, negli ultimi due mesi. Infatti io sono anche convinto di una cosa: il campionato non è finito, non è finito. Ma come non è finito? Il campionato è finito all'epifania, dai, fai il bravo. La Roma però avrà sicuramente un grandissimo dispiacere e rammarico, perché ha fatto un campionato eccezionale, sì. Non è riuscito a battere una Juventus modesta. Io sono convinto di questo. Conte modesta, non sono d'accordo sul fatto che la Juventus sia modesta. E il campionato per me è finito al giorno dell'Epifania, se mai era cominciato. Il giorno dell'Epifania, quando abbiamo battuto la Roma 3-0. E che cosa vuoi di più? Cioè, batti la seconda 3-0. Ma infatti, guarda caso, venivano da 15 giorni di riposo tutte e due e se la sono giocata alla pari. Adesso la Juve ha giocato tre volte più la Roma. È un'occasione che non gli capiterà più. Il prossimo anno non ce l'avrà questa occasione, perché dovrà giocare la Coppa dei Campioni. Sono convinto che questo ciclo sia finito, e mi dispiace per la Juventus, che comunque ritengo invece una eccellente squadra, perché non vinci tre titoli a caso. Mi dispiace moltissimo, perché ogni grande squadra che realizza un ciclo ha bisogno di una cornice europea, e questa era l'occasione per dare una cornice europea, quindi per incorniciare questo ciclo. Sono d'accordissimo con te, però adesso non voglio fare quello che non diventa più tifoso e diventa il grande saggio della sportività. Però nello sport esiste anche che si perde, anche per una questione di DNA, no, perché sennò che processi facciamo a Guardiola e a Mourinho, che sono i signori del calcio. Dovrebbero prima di processare la Juventus, io processerei il Bayern di Monaco e processerei il Chelsea. Hanno altri budget. Ragazzi, se io tifo Simeone, e sono felicissimo, perché è molto bello nel mondo di questo calcio, sì, dei ricchi, vedere che una formazione di medio alto livello, sì, ben organizzata, ben strutturata, ben diretta, riesce a, anche se Carletto mi è estremamente simpatico, esatto, posso dire da Carletto, Juventino, sì, da Juventino, ma io ce l'ho sulla coscienza, perché il signor Moggi non è che ci ha mandato in Serie B. Moggi ha mandato via un allenatore di altissimo livello, dicendo che era un perdente. E infatti, insomma, c'è qualcuno che sta rivedendo il suo pensiero a questo proposito. Prima di tornare agli ascoltatori, Pierluigi, sei uscito a Galerici? Sei. Senti, io vorrei... Reggello, Dove sei? Incisa. Gran bel posto, eh. Poi ti faccio sentire le informazioni sul traffico. Adesso no, però. Adesso da te voglio un preview del weekend che ci attende. Allora, cosa succede in questo weekend in cui c'è la finale di Coppa Italia? C'è un derby di Milano che vale molto, molto, molto di più di 3 punti in classifica. E c'è la Juventus che, di nuovo, nel giorno dei parrucchieri, il lunedì, il giorno di riposo dei barbieri, potrebbe festeggiare il suo scudetto. A meno che la Roma, perché c'è qualcuno che può avere questo retropensiero, non decida di farglielo festeggiare senza giocare, che sarebbe il massimo dello sberleffo. Sì, ma cambia niente, perché la festa lunedì la Juve la fa comunque, i juventini festeggeranno come ricci e fanno benissimo, e fa parte della grandezza dell'impresa, che, ripeto, adesso non può essere cancellata. È il terzo scudetto consecutivo, e credo che nessuno in quell'estate a Bardonecchia, alla prima conferenza stampa di Antonio Conte, poteva immaginare qualcosa del genere. Quindi è un risultato straordinario. Io non sono convinto neanche che sia finito il ciclo. Secondo me la Juve parte avanti a tutte, ha una che è più facile rispetto alle altre, anche rispetto alla Roma, che quest'anno ha fatto delle cose eccezionali. Quindi io penso che il ciclo possa anche continuare. Sicuramente il pareggio di ieri toglie un bel pezzo di stagione, perché è il secondo fallimento europeo dopo quello della Champions League. Quindi proprio laicamente, quindi, questa è la realtà laica, secondo me. Hai pesato la parola fallimento, vero? Sì, ma ragazzi, in Europa è un fallimento, in Italia è un trionfo, in Italia è un trionfo storico. Io sono d'accordo, In Europa è un fallimento. Io sono d'accordo. Le cose, diciamo come stanno. Poi che la Juve sia stata sfortunata in Europa non ci sono dubbi, l'ho detto mille volte, l'ho detto dopo Istanbul, è ero presente a Istanbul, ieri non quindi non sono io a Porto Sfiga, ero presente a Istanbul e sicuramente è stata una partita giocata su un campo assurdo con ma mille alibi. Basta, basta alibi, ma non li vuole nessuno, non, anche gli juventini credo non li vogliono. Ma no, ma certo, questa squadra per, secondo me, sono d'accordo che non è la Juve più forte di sempre, la Juve più forte di sempre è quella di Zidane, quella del 2006, che portò 15 giocatori alla finale mondiale fra Italia e Francia, quella è una squadra pazzesca, ma al di là di tutte le vicende extra, ma quella è una squadra con dei campioni clamorosi. Questa è una squadra che Conte ha saputo modellare, costruire, migliorare in maniera eccezionale, ha ottenuto risultati fantastici. Senti, ma... direi un po' per voglia, un po' per mancata focalizzazione, un po' perché l'asticella agli avversari cresce, un po' anche per sfiga, questa squadra ha fallito. Voi o i vostri ospiti state vergognosamente banchettando sulle sfortune di 11 leoni che ce l'hanno messa tutta dominando all'andata e al ritorno. Il Benfica ha fatto 2 tiri in porta in 2 partite e passano loro. Questo è il calcio? Sì, forse così. Ragazzi, ma il fango che gettate è un'altra cosa, scrive Luigi. Dopo un minuto potevano passare in vantaggio. Ma sì, va bene. No, no, ma infatti il tifo è cieco sordo e muto. Ma chi alza la Coppa Italia? Pierluigi? Chi sa piglia? Devo fare un altro pronostico. È vero, tanto ormai li becchiamo tutti, ragazzi. Quindi adesso facciamo un bel girone di pronostici. Io ho detto Chelsea Bayer finale di Champions, molto bravo. Però ieri io e te signor Cruciani, Napoli è favorito, il Napoli ha più giocatori capaci di risolverla. E anche quella che rischia di più tra le due. Sicuramente. Il Napoli, guardate, qua noi non facciamo sconti a nessuno. Se il Napoli non dovesse vincere domani sera, secondo me la stagione di Benitez è molto sotto il par, ma molto, perché il Napoli aveva cominciato la stagione con l'obiettivo forse non di vincere il campionato ma di provarci e quindi di tenere testa alla Juve, e invece la distanza è una distanza enorme. Il secondo posto veniva dato per scontato, cioè nessuno poteva immaginare che la Roma sarebbe stata questa, però comunque è andato di fatto che il Napoli è arrivato in classifica sotto a quello che si pensava. In Europa è stata bellissima la squadra nelle prime 4 partite, sicuramente sfigata. L'Europa League disastrosa, cioè l'approccio della partita disastrosa, il primo anche tempo. questo va detto, disastroso anche il Napoli, perché col Porto non può uscire. Oggi ci poteva essere, io penso che oggi ci poteva essere il Napoli all'altra semifinale a giocarsi l'Europa ampiamente. Stare, e mi dispiace perché penso che tutte e due avevano delle possibilità in più. La Fiorentina ha beccato la Juve ed è uscita, ma insomma anche la Lazio secondo me ha dei rimpianti in Europa League. Sì, la Lazio deve avere dei rimpianti su come l'ha gestita, dai, perché siamo al discorso di prima, e cioè l'Europa League competizione per cui facciamo giocare le riserve e usciamo con chi che sia. Secondo me va in Europa League, perché se non è la favorita adesso per andare in Europa League, ci può andare e sta facendo un finale di stagione con un livello di attenzione, di focus, di concentrazione che se avesse avuto in Europa League quest'anno con Ludo Goretz probabilmente le consentiva di andare. Dai, ma come puoi uscire dall'Europa League con il Ludo Goretz? Ma fammi capire. Allora, c'è chi scrive addirittura che escono i gobbi 2 volte e li difendete. Mi scrive qualcuno. Infatti siamo qui con lo spadone a difendere la Juventus. Sono 2 ore che siamo qui. In qualsiasi trasmissione o in qualsiasi telecronaca di partite un po' calde, doblete Juve fuori da Coppa. Ti arrivano i tweet di quello che ti dice: ma senta che sei così, e quell'altro ti dice: oh, ma non ti vergogni che sei colà. E prima o poi bisogna farli incontrare. È meraviglioso. Allora, stiamo sui pronostici. Allora, mentre c'è Filippo su Twitter che ti saluta da Valdarno, tu stai passando sulla Cisa, dove sei? Geolocalizzati, come dici tu spesso. Io sono al chilometro 328 dell'autostrada del Sole. Chilometro 328 dell'auto. Com'è il traffico? Fammi un'informazione sul traffico. Sì, su tutta la rete autostradale il traffico è regolare, nonostante le giornate di ponte. Tuttavia si segnalano disagi dovuti al maltempo, massima attenzione e ricordatevi che c'è sempre la corsia di servizio, quella di destra, che non va occupata se non in caso di emergenza, altrimenti vi ritirano la patente. Arrivano gli sbirri. Meteo? Il meteo sì. Il moto ondoso è in aumento in queste il ore. Moto ondoso, no, ma sei meteo, sulla Cisa! Meteo. Ma che ne sai del moto ondoso? Sei sulla Cisa? Scusa, ho scambiato col bollettino della Viglia, ma non sono sulla Cisa, sta più a nord, la Cisa è la parte. Ma sei sulle montagne, che ne sai del bollettino del mare, voglio dire. Sono al chilometro 300. Stai andando a Perugia? sono andato a Perugia, arrivo allora. A Perugia fra un'ora. E che ne sai delle condizioni del mare? L'ho capito. No, hai ragione, il mare, scusa, il mare io ce l'ho dentro, quindi me lo ricordo sempre. A Ponza, davanti a Enzo al frontone, mi sembra che le condizioni atmosferiche siano eccezionali. No, vabbè, che basta. No, dai, basta, io voglio... aspetta, no, va bene, ok, basta così, però non divaghiamo, stiamo facendo i pronostici, quindi Pardo vota Napoli per la Coppa Italia, favorito, quindi... nettamente favorito. Nettamente favorito... Nicola Ferrero favorito, tengo Viola per vicinanza emotiva, però favorito Napoli. Vicinanza emotiva in che senso? Fiorentina e Toro. Fiorentina, sono, beh, certo, molto... Fiorentina e Toro sono molto closer, no? Io quest'anno pensavo che, cioè, resto convinto che con l'organico pieno la Fiorentina avrebbe potuto fare molto di più. Penso che abbia patito, secondo me sì. Secondo me ha fatto il suo. Ha fatto più o meno il suo. Ha fatto più o meno il suo. È chiaro che questa Coppa Italia, se per il Napoli e Fiorentina, per la Fiorentina fa tutta la differenza del mondo. Era Augusto Staggi. Andiamo a guardare così. Vinca il migliore. Ma dai, ma smema. Sei un disastro. Ma scusa, ma chiedi a me del Napoli o della Fiorentina. Chiedo a te. Napoli o Fiorentina? Penso Fiorentina. Poi ti chiedo anche chi vince il Giro d'Italia. Che lì forse perlomeno. No, io direi Fiorentina. Dici Fiorentina. Dico Fiorentina. Io sto con Pardo, non posso fare altrimenti. Dico Napoli. Piantanita, che dici? Napoli anche lui, Cantadori, Viola e Claudio Schiattone, Viola, ok, va bene, vince il Napoli di sicuro. Matteo da Como, che dici, chi vince la Coppa Italia? Ma secondo me Napoli. Luca da Verona, Luca da Verona, che vince la Coppa Italia? Napoli. Francesco da Brescia? Fiorentina. Ok, ho perso il conto come un bambino dell'asilo, ma fa niente. Matteo, dica. Allora, brevemente, grazie per la convocazione intanto. A lei. Sulla Juve, io ho idea che il problema della Juve sia l'allenatore e anche i giocatori, nel senso che a parte Pirlo e Buffon non vedo dei veri campioni che l'abbiano dimostrato. Vidal no? Tevez? Vidal, Tevez? Ma anche Tevez ha delle macchie in carriera. Vabbè, macchie in carriera, parliamo di attualità. Comunque... volevo semplicemente dire questo, facendo una metafora tipica per spiegare il momento o la mentalità della Juve che manca in Europa. Per un campionato che è un ippodromo dove si vede il percorso che è già tracciato, basta un fantino come Conte che proni il cavallo. Mentre invece l'Europa è più una prateria dove i cavalli vanno domati. Di conseguenza, uno che sussurra i cavalli come Ancelotti avrà sempre la meglio. Sussurra i cavalli Ancelotti, sì, hai puro sangue comunque, ricordiamocelo. Ma perché però... sussurrare hai puro sangue è un mestiere diverso rispetto a quello che si fa sussurrando ai ronzini. Quindi ricordiamocelo questo. Luca? Ciao Carlo. Ciao, dimmi. Sentite? Sì, dimmi. Ciao Carlo, ciao Pierluigi, è un onore parlare con voi. Dimmi. Volevo chiedere a tutti e due quanto Conte vi ricorda Mourinho nel cercare alibi alle sconfitte. Zero. Dagli arbitri a varie ed eventuali. A me zero, non so Pierluigi. Ma insomma, sono abbastanza simili come tipo di dialettica. Devo dire che nello specifico adesso sono usciti tutti e due a distanza di un giorno l'uno dall'altro. Mourinho questo giro non ha accampato a grandi scuse. Diciamo, no. Una volta è stato più polemico Conte, anche forse, perché la sconfitta della Juve è stata sicuramente meno netta di quella del Chelsea contro l'Atletico Madrid. Però alla fine i tratti in comune ci sono, sicuramente sono due polemici. Io volevo dire a proposito di Ancelotti, è un genio, poi sembra una persona low profile, ma è un genio. Ma sicuro. Chi ha letto in queste ore, chiaramente anche di celebrazione dopo la grande vittoria, non è che Ancelotti non abbia mai perso, ha pure perso delle partite, per carità, però insomma la capacità, l'umanità, la forza che lui riesce a trasferire ai giocatori, il portarseli dalla sua parte e l'intelligenza tattica di questo allenatore sono straordinari. Lui non ha forse il physique du role per... Cioè, secondo me è un po' come con le donne, no? Cioè tu hai delle volte ci può essere chi è più sensibile al concetto del condottiero, no? Sì. Dell'uomo di potere, dell'uomo forte. Ancelotti questa cosa non te la dà. No, ma è il suo modo di vivere, ma non vuol dire che non abbia carisma, ma certamente, senti Pierluigi, ti saluto con delle parole di Mourinho su Hazard. Sai che Hazard, che è il giocatore di maggior talento che ha, ha detto ieri: siamo una squadra costruita per giocare in contropiede, abbiamo difeso troppo, bla bla bla. Oggi Mourinho ha risposto: certe considerazioni sono fatte in questi casi da giocatori che cercano anche di giustificare i loro errori. Nell'azione del primo gol dell'Atletico, Cole si è trovato solo. Contro il Liverpool sulla fascia sinistra, Schürrle non ha avuto problemi, non ha avuto questi problemi. Hazard non è ancora pronto a sacrificarsi al 100% per il Chelsea. Beh, ciao. Mica la, male, La tocca piano. L'ha toccata pianissimo. Certo che puoi parlare Nicola Ferrero subito dopo la borsa, però, perché siamo già in ritardo. Pier, grazie, ci sentiamo lunedì. Ciao. È un duello acceso in questi giorni. No, mi sembra un po' nervoso il mio collega. Convocati. Allora, abbiamo salutato Pardo, ma c'è Nicola Ferrero che voleva dire una cosa a proposito di Pardo. Cosa? No, volevo semplicemente ringraziarlo per il suo commento di qualche Come anno fa. Giallo. No, fai Pardo. È più di quello che devo fare. Giallo. No, PlayStation. Cioè, più romano. Sì, quando tu venivi ammonito alla Play e rischiavi il rosso, il commento di Pardo, sagace e allo stesso tempo che ti dava speranza, era giallo. Come dire, non è rosso. Lo so che è una stupidaggine, ma quando dice in senso de pennica. Allora, 800240024 è il numero verde. Oggi grande dibattito. Dalla settimana prossima apriremo il dibattito su chi vince il Giro d'Italia. Tanto ce lo racconta Stagli, che è il solito fortunello che segue la edizione numero in carriera 26. Non ti vergogni, 26 edizioni, sì, sì, del Giro lo di dico, vacanza, e 26. Sento un senso di mestizia. Tour? Quanti tour hai fatto? Tour di meno. Perché facevo anche calcio, quindi ho saltato delle edizioni. Sarà il prossimo, il 18esimo. Allora, Pardo mi ha dato comunque a tuo beneficio un sms scritto giallo. Allora, chi lo vince il Giro d'Italia? Chi lo vince il Giro d'Italia? Ma no, ma io mi sto... Ma sai quanto io sia... Tu per chi addicted tifi? To per cycling? Cadel. No, sorry. Tu per chi tifi? Ma io spero cioè, un ragazzo... Allora, se devo dire una follia, spero in un ragazzo giovanissimo, italiano... Forte però. Forte. Io sono stufo di queste storie qui. I giovani devono giocare se sono forti. I giovani devono vincere se sono forti, e poi che ci garantiscano un futuro e che non facciano come ricordi. Non è così facile. Io ce l'avevo in gloria. Ha le caratteristiche per poter diventare un grande corridore. È un compagno di squadra di Vincenzo Nibali. Ma Nibali no? No, Nibali non fa il giro, fa il tour. C'è Scarponi che arriverà a lottare per il podio. Sì. Dal quinto al terzo posto la maglia rosa, no, ma dovrebbe essere affare straniero, Nairo Quintana, grande favorito. Io non mi ricordo una primavera così deprimente. Ti dico la verità, certo. Cioè, è un periodo difficilissimo. Ma non mi ricordo una primavera così deprimente per il ciclismo italiano. Poi adesso tu mi dici: vabbè, saranno facce da straniero, puntiamo al podio con Scarponi, a me viene una malinconia. Senso di smarrimento totale. Poi leggo di Riccò che a me fa. Mi fa bollire. Lì non aprirmi mi fa bollire. No, perché è giusto aprirle, cioè mi fa bollire il sangue. Cioè, squalificato fino al 2024, l'han beccato che comprava ancora le droghe. Comprava. Fa pusher. questo è il sospetto, purtroppo. Che non credo che prenda droghe per fare il giro intorno a casa. Sì. Io sono integralista. Io continuo a pensare che la prima volta che ti beccano tu non sali più su una bicicletta, se non sulla graziella per andare al panettiere. Ma il problema è che più di quello l'hanno, non dico che l'hanno radiato, perché non l'hanno radiato, ne hanno dato 12 anni. Gli ha dato 12 anni a due mesi anche con la condizionale. Ok, dopo un po' di volte, però io dico alla prima ti beccano una volta, tu pensa scendi dalla bici e vai in bicicletta. Pensa che la prima volta che l'hanno pizzicato con ematocrito sballato aveva 18 anni, era ancora juniores. Sì. Questa è una delle storie più tristi del ciclismo italiano, purtroppo, la sua. Nick, come la vedi? Ammetto la mia ignoranza in materia, non mi sbilancio perché è qualche anno che seguo molto poco il ciclismo. Perché lo guardavo con un mio amico che faceva ciclismo da giovane, era molto appassionato, mi spiegava un sacco di roba, poi ha preso altre strade, è andato in Brasile, in Argentina, ora è sposato felicemente a Barcellona e io passo i miei pomeriggi. Ti faceva delle spiegazioni. Lui passa i suoi pomeriggi a cercare il suo amico. Sì, cioè guardare il giro da casa chiamando Davide a Barcellona. Gli manca l'interprete praticamente. Sì, adesso con Skype è un po' più facile. Però ti manca il commento tecnico, insomma. No, io un commento tecnico, poi vi rilascio al vostro ciclismo. Quando parlavate prima di Ancelotti, io ho un grandissimo rispetto e una grande ammirazione per Ancelotti, e notavo l'altra sera, io non mi ricordo un Real che giochi da squadra come una squadra di pallone da 20 anni. Sì. Cioè, come li ha fatti giocare lui quest'anno, proprio a livello di squadra. Ma sia di movimento che così, di... Cioè... Senti, commentami questo messaggio di Luca da Perugia, poi sento Alessandro della provincia di Modena, poi dovremmo avere anche il tuo erede, che è il convocato della prossima settimana, che sta a Roma. Io spero che possa raggiungerci, o quantomeno abbiamo studi, abbiamo redazione anche a Roma, quindi in qualche modo faremo. Voglio che tu mi commenti questo messaggio. Mi commenti questo messaggio: finalmente la riscossa degli umidi, Carletto e il Ciolo, basta con gli arroganti, Mu e Conte. Io per Mu ammetto un mio amore incondizionato, cioè, incondizionato. Sì, assolutamente, in quanto persona estremamente intelligente e di grande eloquio ha fatto breccia nel mio cuore. Poi andai a vedere Inter Barcellona a Milano allo stadio, che è l'ultima partita un po' di un certo livello che ho visto. Infatti la musica della Champions, quando l'avete fatta sentire la settimana scorsa sul mio messaggino, è la roba penso più vicina a me, quella musica lì, che potrò mai sentire nella vita, perché difficilmente sentirò quella musica. Ma non essere pessimista. No, sono realista, per cui. Ma Immobile ai mondiali? Io lo porto, perché segna anche se sbadiglia, per cui... No, è quell'annata lì, hai capito? Cioè, è forte, è giovane, corre, si sbatte e la butta dentro... E quell'anno lì la butta dentro qualunque cosa faccia. Balotelli? Sì, assolutamente sì. Sì. Non porterei Osvaldo, io porterei destro. Osvaldo non credo neanche che sia ballottaggio. È un super come dire, Prandelli lo stima molto. Io porterei destro Immobile, Balotelli di sicuro, se Pepito c'ha la gamba senza dubbio, però fuori da un sacco di tempo. Io porterei i ragazzetti, cioè destro Immobile li porterei tutti e due. Destro Immobile uno dei due, destro Immobile uno dei due. Chi sta parlando? Stavi dicendo che appunto tu ami i giovani, bisogna buttarli e farli giocare. No, quelli bravi. Perché destro Immobile non sono bravi. No, secondo me sono bravissimi tutti. Va bene, ma portiamo Gila. Sono d'accordo con lui. Io porto Cassano. Immobile però. Quest'anno io però se facesse il Giro d'Italia potrebbe vincere. Sì, esatto. È in stato di grazia. Su questo sono io lo vedo d'accordo. Bene anche sullo zoncolante. Lo penso bene un po'. Sullo zoncolante. Allora, il tuo successore, sentiamo che cosa ci ha mandato. Quel primo maggio il pranzo per il mio compleanno è stato più lungo e ho dovuto soffiare le candeline solo dopo che la gara era partita, proprio un attimo prima dell'incidente. Sono rimasti tutti in silenzio anche per me, perché lo associavo a Jimmy Clark, perché lo difendevo quando il ferrarismo era dogma e Poltronieri lo apostrofava come pericoloso pilota di go-kart, ricco e viziato. E aveva pure ragione. All'Hungaroring, che è un kartodomo stretto, ha fatto 5 sorpassi in un giro e giro record passando dai box. L'unico che piegava la testa in curva come se andasse in moto. Il primo Monte Carlo sul bagnato con la Toleman in gran rimonta su Prost è una grande opera prima. L'ho visto a Monza, dietro il paddock, mezza tuta penzoloni, tutti intorno a lui, lui muto a testa bassa. Mi ha fatto scoppiare la testa passando sul rettilineo per i 50 giri sempre sulla stessa linea ideale e ho capito, era un mistico. Poi è arrivato un altro kartista tedesco che piegava anche lui la testa in curva. Avrebbe finito di batterlo e anche sonoramente forse, però loro due hanno definitivamente smentito la definizione giornalistica di più grande di tutti i tempi, perché è un titolo impossibile da assegnare ex aequo. Botone. Allora, mentre c'è un ascoltatore che mi scrive, il vostro ospite, ovviamente riferito a Nicola Ferrero, è più bravo di molti giornalisti e io sottoscrivo, caro il mio ascoltatore. Io arrossisco. No, vabbè, Andrea Di Mario ci ha mandato questo, voto alto, eh? Grazie. Bravo, eh? Grazie, io sono, mi sono sentito, mi avete fatto sentire a mio agio, e cosa posso dirvi di più? Andrea, buongiorno, ciao. Ah no, scusa, lui, bellissimo, lui, sto bellissimo. Pelle d'oca. Andrea? Sì, ci sono. Bravo, bravo davvero. Grazie. No, ma senti, però una vergogna. No, ma però la maglietta di tutti i convocati, che è un cult assoluto. Poi sto intercedendo per farla avere a Staggio a portare al Giro d'Italia, però non so ancora, cioè devono ancora dirmelo, devono ancora darmi una risposta. Però cioè io voglio ti voglio in onda venerdì prossimo, giovedì, quando hai tempo. Va bene. Come proverò si fa? A esserci, insomma. Non lavoro, so, se vuoi organizziamo tutto un ambaradan, puoi andare agli studi di Roma, eh? Ma io sarei contento di vedere voi al lavoro, insomma, siete grandissimi. Noi, grandissimo tu. No, noi lavoro, noi, beh, io non a Roma non ne la faccio. però non so, se vuoi venire a Milano, siamo qua. Se capito, io dovrei trasferirmi da Milano. Senti, da poco. Organizziamo, facciamo così, bene. Organizziamo. Quindi su Senna ci hai raccontato, anche a me è venuta la pelle d'oca, ma perché ho detto nei giorni scorsi, allora quel giorno 14-17 del primo maggio 94 è una Polaroid che tutti ci portiamo in tasca come i grandi momenti della grandi nel senso di importanti della nostra esistenza. Quella che ci hai dato tu, beh, chapeau, complimenti. Grazie, io poi sono stato sfortunato perché al mio compleanno il mio Beniamino, insomma, è finita male. Anche quel il mio giorno. Compleanno. Anche il tuo compleanno? Ma carambata, sì, sì, ho smesso di seguire la Formula 1 con il primo maggio del 94 per la morte di Senna. Io tu, anch'io. Vabbè, io la guardo per ragioni professionali, ma io non mi batte il cuore. No. Con tutto il rispetto per gli altri campioni, ce ne sono stati uno in particolare, giustamente l'ha ricordato e l'ha citato, perché è Schumacher, però forse le parole non riescono a spiegare tutto, ma Senna è stata in maniera autentica poesia. Io sento sempre Lucio Dalla che gli ha dedicato una grandissima canzone e mi commuovo ancora. Sì. Andrea, ciao, ti ringrazio, ti ringrazio, ti aspetto, allora vedrai che organizziamo, in qualche modo organizziamo per trovarci e parlare un paio d'ore insieme. Grazie ad Andrea Va Di Mario. Mi fermo per il traffico, ultimo break della Gioia di Pardo, poi torniamo. Tutti convocati. Allora, torniamo ancora 10 minuti insieme, il tempo è volato, gli ascoltatori anche, 800 24 00 24, siamo vicini al record storico Radio 24 oggi con questa storia della Juventus eccetera. Io sono con Pier Augusto Stagi, che conoscete tutti, e Nicola Ferrero, che è ormai il nostro collega, commentatore qui a Radio 24, benissimo, io sono anche un po' stanco. Lascio rispondere a loro. Alessandro, provincia di Modena. Sì, buongiorno, salve. Buongiorno, dica. Sì, siete un po' ingiusti però, perché io tutti i giorni cerco di prendere la linea, non riesco a prenderla. Stiamo Alessandro, siamo in onda. Siamo in onda. Speravo di non prenderla. Invece ho sfiorato il cellulare e mi avete messo in diretta subito, perché non si fa così. Comunque, ma perché noi siamo perfidi. Ma invece noi juventini invece ormai bruciore di stomaco, con tutte le finali che abbiamo perso, tutte le situazioni anche a volte sfortunate, bisogna dirlo, perché... Allora, lei vuole Conte per il futuro o no? Allora, onestamente a me Conte piace molto, purtroppo a volte rimane stucchevole quando, diciamo, si fa scappare i pensieri subito dopo le partite, che lo differenzia da Ancelotti, che magari anche Ancelotti molte volte pensa, mamma mia, questi qua hanno perso 10 minuti, quello è il rigore, così... Però Ancelotti, essendo una persona un po' più moderata, diciamo, si rende anche antipatico, nonostante non sia, secondo il mio punto di vista, il super fenomeno della storia del calcio. Lo diventi quando hai dei Bale, quando hai Ale, stai fermo. Certo. Allora, questo discorso a me non piace, cioè non mi piace, no, perché non mi piace, non mi piacciono i discorsi, bravi, tutti bravi a vincere con le squadre forti, no, perché vince uno solo. Allora, alla fine conta il palmarès, contano i numeri, secondo me Ancelotti ha numeri da grande allenatore, Mourinho, 8 finali di Champions League, semifinali di Champions League, ha i numeri del grande allenatore. Guardiola ha i numeri del grande allenatore, perché poi sennò diventa tutto un magma impossibile da leggere. È chiaro che per vincere ci vogliono le grandi squadre, però non è un discorso, secondo me, corretto e realistico dire: ah, bravo, vinci solo perché hai la grande squadra. Allenare la grande squadra è un mestiere diverso, difficile, no? No? Genta, l'allenatore migliore è quello che sbaglia di meno, e sono d'accordo, però quando... allora, il discorso simpatia si sta al fatto che Conte apre l'impermeabile, dice quello che pensa e fa brutte figure, si rende antipatico alla gente. Come allenatore è buono. Ma a me non è antipatico, però io sono di una... Attenzione. Concludo velocemente. Sì. Nella Champions la squadra più forte solitamente vince. Quando ci sono due squadre che si equivalgono, sono gli episodi, ci sono delle squadre che a due minuti dalla fine nel girone eliminatorio, va bene, ci sono anche, fa una papera, sì, ci sono anche delle squadre che vincono 3-0 alla fine del primo tempo e poi perdono la Champions League. Questo dai, non farti del male. Comunque Conte tutta la vita, dai, nello Juventino va bene per noi, va bene. Che ci metta la cerniera sulla bocca a volte. No, basta vinca qualcosa a livello europeo, e quest'anno aveva la chance. Questa era importante. Questa era comodissima, non si può perdere. No, era imperdibile, cioè esagero, era necessaria questa, perché la Juventus, questa Juventus ha fatto un ciclo meraviglioso. E aveva bisogno di questa cornice d'oro in Europa per ricordare, per incorniciare questo ciclo. Ma ed è una grandissima occasione persa. E l'allenatore di questa Juventus è Antonio Conte. Nicola. Io resto convinto di quello che dissi la settimana scorsa. Secondo me, a me quello che, per cui ha deluso Conte quest'anno è stato il motivo opposto per cui mi aveva entusiasmato, pur da tifoso granata, il primo anno, cioè la duttilità e la capacità di cambiare schema sia durante l'anno sia a partita in corso. Quest'anno si è inchiodato su questo 3-5-2. Io mi piace molto leggere e parlare di tattica, sono un grande fan di Jonathan Wilson, che è un giornalista inglese bravissimo, che scrive sul Guardian, e lui rimarcava anche questa cosa, cioè non mi arrogo la primogenitura di quest'idea. Secondo me il 3-5-2 oggi non è uno schema vincente, a prescindere dagli uomini, a prescindere dalle interpretazioni. Secondo me il Benfica ieri sera ha fatto una partita ordinata e nulla più. Ma certo, cioè, ha fatto due partite ordinate, non una più. Si sono messi in linea, hanno perché difeso un conto bene. È la finale finito. Secca, allora le certo, stelle contano certo, il doppio, no? Certo. Ma sul doppio confronto, certo, tendenzialmente. Ieri non abbiamo visto uno squadrone, abbiamo visto una squadra ordinata. Sentiamo tifoso della Juventus. Ma io sono d'accordo su quanto state dicendo. Cioè? Però prima mi avete aggredito, io ritorno a bomba, nel senso che la Juventus ha giocato contro un buon Benfica ordinato e nulla più, d'accordissimo. Contro una Juventus che aveva grandi potenzialità, però non grandissima tecnica come noi pensiamo di avere. Non abbiamo giocatori così sopraffini. Abbiamo una buona squadra che conta. I limiti li hanno tutti gli allenatori, e l'abbiamo visto anche recentemente, li ha anche Conte. Sono d'accordo con lui che quest'anno è stato meno spregiudicato, meno duttile, si è caponito su alcune cose, però è anche vero che i giocatori quest'anno non li ho mai visti giocare, hanno giocato forse un mese veramente a grandi livelli, con una facilità di giocata. Un mese poco, cioè hanno giocato più di un mese a grandi livelli. Il problema è che tu devi arrivare adesso a grandi livelli. Voglio dire. Lì probabilmente c'è qualcosa anche di sbagliato. Certo, si programma sbagliato anche, no? A livello di preparazione. Non lo so, io adesso non posso. Io parlo da esterno, da fruitore appassionato della maglia bianco e nera, tifosissimo, che ci è rimasto male come tanti juventini. Si aspettava di arrivare in finale, e te lo dico sì, lo dicevo già anche ieri, dicevo che era più dura la partita, l'eventuale finale della partita col Benfica, perché col Benfica potevamo anche faticare, ma comunque era una squadra di un certo livello. Nella partita secca a Torino contro una squadra che tutti avrebbero detto la Juve vince facile, sarebbe stata durissima. Vabbè, ma devi superare anche sono d'accordo con te, è il salto di qualità che ragazzi, devi fare per vincere, la Juve non è riuscita per vincere, a farlo. Tu devi vincere sulla Peduez, non è che ti basta andare forte in pianura. Quando io sono arrivato oggi oggi qua, ti ho detto, la squadra, la Juventus non è una, ancora una grande squadra come tutti dicono, come forse Conte vuol far credere. A che ciclista, è una buona squadra. A che corridore la paragoneresti? Guarda, tu adesso prima hai fatto un sorrisino, però la Juventus è una buona Juventus, che però è Michele Scarponi, che magari vince un Giro d'Italia a tavolino perché ti fermano Contador, scusa se lo dico, ma è così. Michele Scarponi, dai, la Juventus è Michele Scarponi. Vabbè, io dico tutto bene che voglio anche Scarponi. Allora dai, voglio dire Vincenzo Nibali, perché non ha ancora vinto il tour e questo è stato bravo in Italia. Così va già meglio. Anche allora, se comunque Vincenzo Nibali ha fatto anche un terzo posto al Tour de France. Chi si porta a casa la maglietta di oggi, a parte Nicola Ferrero, che qualcuno, Mario su Twitter ad esempio, vuole come ospite fisso. Allora, chi il migliore sono in campo tutti di prezzolati, oggi? Sì, ci tenevo a dirlo. Mi ha lasciato il migliore di oggi. Soldoni. Buongiorno a tutti e grazie di essere stato convocato. Dica. Volevo premettere che sono un gran tifoso del Napoli e volevo fare una dichiarazione. Ieri sera al fischio finale della Juve ho provato lo stesso godimento che provò il cronista sardo quando Sau fece il 3-1 a Milano con l'Inter. Una cosa magnifica. Volevo rimandare anche l'orista sardo, non c'è tempo, purtroppo non c'è tempo. Comunque l'ascoltatore si porta a casa la maglietta di Griffada, tutti i convocati. Allora, Pier Augusto Stagi ci racconterà il Giro d'Italia, sta andando a Dublino, sì. Disgraziato, mi porti mai? Vieni, dai. Vengo, sì. Chi viene? Ok, adesso organizzo, Nicola Ferrero qua. Organizziamo io il torpedo. Sì, no, lui viene qui al mio posto, io vengo con te a Dublino. Con te Gatti, Cristiano Gatti e Angelo Costa. Così okay. Tu puoi parlare anche con Costa di basket. Quindi. Così posso parlare con Costa di basket quando ci vediamo, facciamo il viaggio insieme e poi si salvi dal po'. Esatto, esatto. Fantastico. Allora, grazie per Augusto Stagi, che ovviamente è di casa, ritroveremo. Grazie davvero grazie a Nicola voi. Ferrero, che è stato bellissimo. Strepitoso. Franco Piantoni, autore di questo programma, Claudia Schiattone in redazione, Fabio Cantadori in regia. Dunque, oggi è venerdì, ci sentiamo lunedì. No, lunedì non ci sono, neanche martedì. Sorry, ci sentiamo mercoledì. Ciao. Quasi una cosa sessualmente vietata ai minori. Concludo ricordandovi che la nostra trasmissione va in onda alla stessa ora ogni settimana, lo stesso giorno, la stessa ora, la stessa rete. Bello, eh?